Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24, la rassegna stampa europea. Buon sabato da Giulia Crivelli. Naturalmente l'argomento europeo per eccellenza in questo momento è la Grecia, però purtroppo possiamo solo fare delle considerazioni generali, perché sapete che di fatto i colloqui si sono interrotti perché si aspetta questo referendum che si terrà domani. L'esito di questo referendum, a cui il premier Tsipras ha affidato in un certo senso l'esito delle trattative, ma forse anche l'esito della sua premiership, perché molti pensano, avendo lui caldeggiato di votare per il no all'accordo con l'accordo come è stato prospettato in questo momento, all'accordo con l'Unione Europea, se dovesse vincere il sì, la conseguenza naturale sarebbe che Tsipras desse le dimissioni. Ma tutta la trattativa, lo sapete, è talmente strana, si fa talmente fatica a decifrarla, che poi magari le dimissioni non arriveranno. Ma vediamo allora alcune analisi prima poi di passare anche a qualche altro argomento. Ce n'è per esempio una del Guardian, che Internazionale ha tradotto, e si intitola "Non basterà un accordo a risollevare la Grecia". Appunto, il tema non è tanto questo accordo, che sta diventando veramente un po' come la tela di Penelope: sembra fatto, poi viene disfatto, poi verrà rifatto, poi verrà forse di nuovo disfatto, ma che cosa succede comunque dopo. E allora scrive il Guardian: mentre il negoziato dell'ultima spiaggia si trascina verso l'ennesimo vertice d'emergenza, e vi segnalo che questo articolo è stato scritto 10 giorni fa, ma potrebbe essere stato scritto ieri, per darci appunto l'idea di questa infinita, anche sfiancante trattativa, sfiancante per chi la fa, sfiancante per chi la segue. I greci sono sempre più appunto sfiancati. Sfortunatamente ci siamo abituati a questa situazione e anche ai negoziati interminabili, spiega Christos Grigoriades, che insegna fisica in una scuola di Salonicco, la seconda città del paese. La paura per l'esito di queste infinite trattative è talmente diffusa da aver perso quasi ogni significato. Oggi la principale preoccupazione dei greci è far quadrare i conti e mettere da mangiare in tavola, e ce ne siamo resi conto anche vedendo le file davanti ai bancomat dello scorso fine settimana, e poi la decisione delle banche di non riaprire ma di permettere comunque di prelevare, pensate, 60 euro, cioè 60 euro fanno la differenza tra avere appunto i soldi per andare a fare la spesa e non averli. Un altro articolo che tenta di dirci qualche cosa in più rispetto a l'Eurogruppo ha deciso, no non ha deciso, Tsipras ha detto, no Varoufakis ha risposto, è apparso su France Inter, l'ha scritto Bernanguetta, anche in questo caso lo possiamo leggere grazie a Internazionale, e si intitola 5 lezioni per l'Europa. Vi leggo l'ultimo, comunque trovate tutto semmai online o appunto su Internazionale, perché tutto quello, poi questo tema della Grecia, in realtà tutti lo legano molto a una crisi più generale delle capacità di trattare dell'Europa come un corpo unito, senza magari identificare la propria posizione con un paese o l'altro, che poi naturalmente spesso è il paese più forte, la famosa locomotiva d'Europa, cioè la Germania, nella persona di Angela Merkel. Allora scrive Bernanguetta: il quinto insegnamento da trarre da questa lunga maratona diplomatica, infine, è che gli Stati Uniti, dopo aver temuto a lungo un'eccessiva crescita dell'Europa, oggi hanno bisogno di un'unione forte sulla scena internazionale. Se così fosse, Washington non avrebbe chiesto con così tanta insistenza un'intesa ragionevole ad Atene e al resto dell'Europa. E sapete che tra le tante telefonate di cui ci hanno parlato, perché poi avviene tutto sul palcoscenico ma dietro le quinte, poi di nuovo davanti ai microfoni, poi invece nelle segrete stanze del potere, insomma pare che Obama abbia più volte chiamato i vertici europei e forse anche si sia messo in contatto con quelli greci. Passiamo un po' magari ad altri paesi e vediamo, però sempre in tema comunque del ruolo che gli Stati Uniti stanno giocando su questo scacchiere occidentale, dopo naturalmente la fine della guerra fredda, l'allargamento della NATO, insomma anche qui è tutta una situazione molto diplomatica, molto fluida. Vediamo la famosa questione delle sanzioni, perché sapete che nel vertice l'ultimo vertice dei ministri degli esteri, che si è tenuto il 22 giugno in Lussemburgo, sono state rinnovate le sanzioni economiche contro la Russia. E vediamo allora alcune reazioni della Russia, perché queste sanzioni sono state fortemente auspicate proprio dagli Stati Uniti, e poi però per esempio molti imprenditori italiani ma anche di altri paesi che vedono nella Russia uno dei principali partner commerciali hanno poi criticato questa decisione. Allora, l'ex presidente Viktor Yanukovych scrive per esempio sul sito ucraino, perché sappiamo anche che questa questione delle sanzioni è legata alla crisi tra Russia e Ucraina, quindi ha rilasciato un'intervista sia su Insider che poi anche ha rilasciato un'intervista alla BBC, e tra l'altro è esiliato a Mosca perché lui era filo moscovita e quindi ha dovuto lasciare il paese quando l'Ucraina ha avuto la sua spinta indipendentista dall'influenza russa. Lei ha però mostrato insolitamente un fare molto diplomatico, come dire che Putin, sì, da una parte deve mostrare, Putin e tutti i suoi sostenitori devono mostrare di tenere la linea dura, tenere il punto sulla difesa dell'alleanza, diciamo, con i filo russi che sono in Ucraina, però allo stesso tempo non vuole far riprecipitare la crisi ai livelli di qualche mese fa, che sappiamo era diventata anche una vera e propria crisi militare. L'Economist di questa settimana dedica la copertina alla Grecia, lo stesso fa di nuovo Internazionale, quindi avrete ancora tanti altri commenti da leggere se ne avrete voglia. Addirittura l'Economist si spinge a dire, ma l'abbiamo anche questo sentito, che è il futuro stesso dell'Europa a essere nelle mani della Grecia. E c'è invece, per tornare dall'altra parte dell'Atlantico, un editoriale del Washington Post molto duro, perché fa un po' il punto, come spesso ha fatto anche Oscar Giannini in questi giorni, ricordando con i numeri che ci sono dei nodi irrisolti che la Grecia veramente non ha dato i segnali giusti di voler risolvere: l'evasione fiscale, la questione delle pensioni. Avete sentito lo stesso Renzi dire: non abbiamo fatto una riforma previdenziale, lacrime e sangue in Italia, per poi lasciare le belle pensioni ai greci. La questione dell'intoccabilità di certi privilegi dati agli armatori, che sono tra i più ricchi della Grecia, oppure ancora abbiamo sentito prima parlare di Salonicco, tutta la grande località turistica, tutti i privilegi dati a chi operava nel settore del turismo. Insomma, secondo il Washington Post, la crisi della Grecia fa bene per l'Europa e bisogna mostrare il pugno duro, perché chi davvero ha promesso e poi non mantenuto, a questo punto dovrebbe subire le conseguenze delle sue azioni. Certo, parole, se vogliamo, anche condivisibili, anche di buonsenso, ma sappiamo che non è quella la soluzione quando si parla di una comunità di 27-28 stati che deve trovare invece un modo per ricominciare, non vendette trasversali, o almeno insomma questo è un po' il mio pensiero. Ma veniamo a un'altra questione che riguarda invece l'Europa e la Cina. Questo è preso dal sito Euronews. Sapete che c'è stato qualche mese fa l'acquisizione di Pirelli, della quota di maggioranza di Pirelli da parte di ChemChina, uno dei colossi cinesi. Era una operazione che doveva essere sottoposta all'antitrust europeo, e due giorni fa la China National Chemical, appunto ChemChina, ha ottenuto il via libera da parte dell'antitrust europeo all'acquisizione di Pirelli, un'operazione pensata da 7,1 miliardi di euro. È un'operazione che, unendo le attività di questo grande gruppo industriale italiano a quelle di un colosso chimico, darà una quota del 10% nel mercato globale degli pneumatici ai cinesi. E una pronuncia della Commissione europea che era molto attesa, importante. Sapete che tra l'altro gli attuali vertici di Pirelli resteranno al loro posto, quindi si può sempre discutere del fatto che sulla carta, la carta d'identità, un'azienda non è più italiana, però comunque continua a mantenere una forte presenza in Italia. Tra l'altro questo è proprio quello che è stato promesso, cioè che comunque la capacità industriale resterà qui e quindi anche i posti di lavoro. Un'altra decisione a livello europeo di cui dà conto un altro sito di notizie europee è quella del finanziamento della TAV per altri 813 milioni stanziati da Bruxelles. In questi giorni ci sono state tante proteste proprio in vista di questa decisione, però questa grande opera va avanti. Tra l'altro ci sono anche tante altre grandi opere finanziate, come ha spiegato la commissaria ai trasporti Violetta Bulc, per cercare anche di smorzare un pochino le polemiche, l'Italia non è l'unico paese dove ci sono dei gruppi di attivisti che anche pacificamente pensano che i soldi potrebbero essere usati in modo migliore. Però per esempio Violetta Bulc appunto ha spiegato che si potrebbero creare con tutte queste opere fino a 10 milioni di posti di lavoro, aumentando il PIL europeo dell'1,8% entro il 2030. Il governo italiano, tramite il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio, ha naturalmente detto che questa è una buona notizia. Un'ultima notizia ve la do dal Financial Times, che è tornato sulla questione della Brexit, che sapete sarebbe l'uscita della Gran Bretagna non dall'Unione Europea, non dalla zona euro, perché non è mai stata nell'Europa dall'euro la Gran Bretagna, ma addirittura dall'Unione Europea. Secondo il Financial Times, era forse la presa di posizione più dura, più chiara che sento fare al quotidiano della City, è che l'Unione, il Regno Unito, cioè questa volta non l'Unione Europea, ma il Regno Unito, che sapete è fatto di, un paese federale, non sopravviverebbe alla Brexit. Secondo appunto la previsione del Financial Times è che si tornerebbe a parlare di un'uscita della Scozia, di un distacco della Scozia, sapete, scongiurato da pochi mesi con un referendum, scongiurata questa uscita, se ne ricomincerebbe a parlare. Quindi niente Brexit per il Financial Times, che tra l'altro ha dato voce più spesso alle preoccupazioni della City, in questo caso solo finanziarie, per appunto un'eventuale uscita dall'Unione Europea della Gran Bretagna. Era l'ultima segnalazione, domani attendiamo tutti l'esito del referendum greco e poi lo commenteremo sabato prossimo. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.